Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nessun riscontro che Alemanno abbia portato soldi all'estero, dice la procura dopo le indiscrezioni di queste ore, spuntano i contatti di Carminati con gli apparati dello Stato. Dopo l'attacco della Merkel alle riforme italiane e francesi, il governo tedesco smorza i toni, complimenti dal portavoce della cancelliera e dal ministro delle finanze al Jobs Act. L'omicidio del bambino in provincia di Ragusa, secondo la stampa locale, si indagherebbe su due persone, nessuna conferma al momento dagli investigatori. Le tariffe in due anni sono cresciute del 7,5% con un picco per rifiuti e acqua, mentre le tasse locali sono di 465 euro in media a cittadino. Milano, Venezia e Roma al top. Autore di grandi successi, da Oro a Mediterraneo, passando per Bella d'estate, muore sul palco a 60 anni il cantante Mango. Mogol a Radio 24, è una giornata nera. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti in onda anche oggi, giorno di festa, 349-238-6666 per i vostri sms e per commentare in diretta, come sempre c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. In apertura dunque ancora l'inchiesta di Roma e i suoi effetti politici, è da qua che iniziamo dalla cronaca con i dettagli che continuano ad emergere dalle carte e gli investigatori costretti a smentire alcune indiscrezioni circolate oggi sui giornali. Monica Ceravolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Da un punto di vista strettamente giudiziario si aspetta che il Tribunale del Riesame si esprima sulle richieste di scarcerazione presentate dagli indagati e intanto l'inchiesta Mafia Capitale punta a ricostruire passaggi di denaro tra il mondo criminale gestito da Massimo Carminati e il mondo della politica romana, che in cambio si sarebbe messa a disposizione accettando di truccare gare, di rottare fondi, confezionare appalti a beneficio della presunta nuova mafia capitolina. Per seguire dunque le tracce lasciate dal denaro sporco frutto di tangenti bisogna varcare i confini, si arriva così in Svizzera ma anche a San Marino, dove emerge da alcune intercettazioni potrebbe essere stato portato parte del denaro a mano in contanti prima di essere trasferito nei paradisi fiscali d'oltreoceano. L'inchiesta porta anche in Argentina, secondo le parole di Luca Odevaine, uno degli indagati già vice capo di gabinetto di Veltroni, proprio in Argentina l'ex sindaco Gianni Alemanno avrebbe portato le presunte tangenti approfittando del fatto che in aeroporto riuscisse a passare da varchi riservati senza quindi subire controlli. Alemanno però smentisce questa vicenda e anche dalla procura di Roma oggi arriva la notizia che si tratterebbe di fatti non riscontrati. Rimane il fatto però che per anni sono spariti mucchi di soldi dalle casse pubbliche drenati dalla criminalità e sono proprio i movimenti di questo denaro all'attenzione degli inquirenti che potranno rivelare quali sono i veri rapporti tra quali siano stati i veri rapporti tra criminalità e politica. Ed è tutto. Grazie a Monica Ceravolo per questi aggiornamenti. Veniamo appunto al fronte politico, c'è attesa per il momento nel quale parlerà oggi Matteo Renzi ad un incontro a Roma organizzato dai Giovani Democratici, intanto qualche dichiarazione sta già circolando. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Alla cosiddetta Leopoldina dei Giovani Democratici, naturalmente oggi il più atteso è l'intervento del segretario democratico Matteo Renzi, che, lo ricordiamo, nei giorni scorsi si era detto schifato per quanto emerso da questa inchiesta, dall'inchiesta sulla mafia della capitale. Per fare fronte alla bufera giudiziaria che ha investito il Campidoglio, il Partito Democratico in questi giorni sta provando a serrare i ranghi ma anche a fare pulizia al suo interno. Stamattina ne ha parlato proprio alla Leopoldina romana anche il presidente del partito Matteo Orfini, nominato da Renzi commissario del PD romano. Sentiamo le sue parole. Per quanto riguarda il nostro partito saremo durissimi, cercheremo chi ha sbagliato, cercheremo di capire quali sono i circoli veri, quali sono i circoli finti, faremo tutto quello che si può fare per garantire trasparenza, certificheremo il bilancio della federazione, cercheremo di stroncare, anzi riusciremo a stroncare la cancrena correntizia che ha ridotto così il partito di Roma. Ecco, ma il Partito Democratico sta anche facendo quadrato attorno al sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ieri, parlando proprio alla convention dei Giovani Dem, ha ribadito di non aver nessuna intenzione di dimettersi, come chiedono invece Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Simone. Grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. C'è un altro tema sul quale torniamo oggi, che è molto importante, sono i rapporti tra Carminati e pezzi degli apparati dello Stato. Vogliamo ragionare insomma sulle possibili coperture che Carminati può aver avuto, e lo facciamo con l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Il grande buco nero dell'inchiesta Mafia Capitale resta imbrigliato in quei contatti mai chiariti tra Massimo Carminati ed alcuni uomini degli apparati dello Stato. Si tratta di un legame accertato fin negli anni 70, all'inizio della sua carriera criminale. A quel tempo Carminati prende quota nel gruppo dei neri dell'Eur e nella banda della Magliana e si vanta di avere appoggi anche all'interno delle forze dell'ordine del Tribunale di Roma. Lo dirà ad un altro affiliato della banda, Claudio Sicilia, a proposito dell'indagine sulla morte del tabaccaio Teodoro Pugliese, assassinato secondo l'accusa da Massimo Carminati, Alessandro Alibrandi e Claudio Bracci per aver intralciato il traffico di stupefacenti di Franco Giuseppucci, detto Negro. Nell'interrogatorio del 7 novembre dell'86, il pentito sostiene che Carminati si disse preoccupato di una richiesta di accertamento fatta dal pubblico ministero nel corso di un processo sull'impronta digitale rilevata sull'auto rubata e utilizzata per l'omicidio. Secondo Sicilia, Carminati, tramite conoscenze altolocate alla Criminal Pol, era riuscito a contattare il perito incaricato dell'indagine così da alterare l'impronta oggetto dell'accertamento. Pochi anni dopo, con i vertici piduisti dei servizi segreti, Sismi, Musumeci e Belmonte, viene coinvolto nelle indagini sul depistaggio sul treno Taranto-Milano del 13 gennaio dell'81, successivo alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Per l'omicidio di Pugliese e per il depistaggio di Bologna, Carminati ne esce assolto. Il 17 luglio Carminati viene arrestato in compagnia di quattro carabinieri mentre trafuga le cassette di sicurezza del cavò del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio, rubando 18 miliardi di lire e numerosi documenti di magistrati. Per questa vicenda invece condannato a 4 anni di reclusione. Si arriva ad oggi e nell'ordinanza di custodia cautelare che porta in carcere il boss, il GIP cita i contatti tra Carminati e un certo Federico, appartenente alle forze dell'ordine o ai servizi di informazione, che si sarebbe messo a disposizione per qualsiasi cosa e gli aveva spiegato particolari preziosi sulla possibile intercettazione attraverso la connessione in rete Wi-Fi. Nell'inchiesta ci sono tracce di contatti tra alcuni carabinieri e sodali di Carminati, intenti, dicono i giudici, a progettare insieme rapine a Roma. Gli aggiornamenti sulla vicenda dell'omicidio del bambino in provincia di Ragusa. Potrebbero essere almeno due i colpevoli dell'omicidio del piccolo Loris Stival, strangolato e gettato ancora vivo nel fosso del Mulino Vecchio sabato 29 novembre a Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. Lo sostiene il Corriere di Ragusa, ma la notizia non è stata confermata dagli inquirenti. Secondo il quotidiano online si tratterebbe di persone note al bambino e ci sarebbero parecchi indizi e alcune prove schiaccianti. I due, racconta il quotidiano, si sarebbero coperti a vicenda dopo aver strangolato il bambino con una fascetta di plastica di quelle in uso tra gli elettricisti, mentre su Facebook la zia del papà di Loris, Antonella Stival, si è lasciata andare a un commento allusivo. Infausto pensiero, ha scritto la donna, con la lettera F maiuscola che stacca un nome proprio maschile all'interno dell'aggettivo infausto, cui è seguita la frase bastardi, costituitevi. Poche ore dopo però la donna ha corretto il tiro, mentre l'avvocato della famiglia Stival, Francesco Villardita, ribadisce che gli Stival sono parte offesa e protesta ancora contro la fuga di notizie. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ragusa. Siamo alla politica europea, con le tensioni che si sono registrate dopo le parole di Angela Merkel sulle riforme. C'è stata la replica italiana e oggi si riunisce l'Eurogruppo. Given the circumstances, date le circostanze, la Commissione ha proposto di concedere più tempo a tre paesi. È il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, a dare un ordine e un verso alle affermazioni arrivate dalle cancellerie. Oggi, al vertice dei ministri delle finanze di Eurolandia, verrà sancita la decisione di rimandare a marzo l'esame sui bilanci di Francia, Italia e Belgio. Nel frattempo, però, e Dijsselbloem lo sottolinea senza giri di parole, i tre farebbero bene ad ascoltare con attenzione quanto detto dalla Commissione, e cioè che le finanziarie presentate non sono sufficienti. Dunque, il tempo concesso deve essere sfruttato. Un concetto ribadito, ma con tono più fiducioso, dal ministro dell'economia tedesco Schäuble. Italien hat eine beachtliche L'Italia ha approvato una riforma notevole del mercato del lavoro, ha detto il ministro arrivando all'Eurogruppo, sconfessando in parte le parole della Merkel, che ieri hanno fatto infuriare mezzo governo Renzi. Riforme insufficienti in Italia e Francia, aveva detto la cancelliera, che oggi corregge il tiro attraverso il suo portavoce. La Germania ha rispetto per le riforme italiane e il Jobs Act è un primo passo importante. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è anche il commento del leader leghista Matteo Salvini, che dice: Merkel ha ragione quando dice che il governo Renzi non ha fatto un accidente. Che poi sia la Merkel a dovercelo dire mi dà fastidio, perché non abbiamo bisogno che ce lo dica lei. Di tutto questo parleremo tra poco col sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi. Adesso parliamo di musica. Per averti pagherei un milione anche più. Ebbene, la riconoscete tutti e la notizia ormai la sapete. Stava cantando Oro, uno dei suoi primi successi 30 anni fa, quando si è accasciato sul palco. È morto così stanotte Mango, colpito da un arresto cardiaco, un infarto alla fine del concerto al Pala Ercole di Policoro, provincia di Matera, nella sua terra. È stato soccorso e portato in ospedale, dove è arrivato senza vita. Giuseppe Mango, Pino per gli amici, era originario della Basilicata di Lago Negro, dove era nato 60 anni fa, il 6 novembre del 54. Cantante, compositore, interprete, la sua carriera inizia da ragazzino con rock e blues per arrivare al premio della critica Sanremo nell'85. Tra le canzoni di maggiore successo, La Rondine, Bella d'estate, scritta con Lucio Dalla, e Mediterraneo, la preferita di Mogol, che lo ricorda con affetto. Lo ha intervistato Livia Zancanera. Un artista grande, un compositore, un cantante straordinario, una personalità grande. Voi vi siete conosciuti anni fa, erano i primi anni 80, quando lei ha scoperto Mango, ha sentito la sua canzone. Da lì poi cosa è successo? Io ho scritto Oro per lui, la prima canzone che fece un grande successo. E poi ho scritto Nella mia città, poi ho scritto Mediterraneo, una delle più belle canzoni che ho scritto nella mia vita. Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce e il mare. Coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da vedere. Veramente era un grande artista, poi era un lucano d'oca, un uomo che amava la sua terra, un uomo discreto e generoso, che la generosità negli artisti non è così, non è così comune. E qual è il ricordo più bello che ha? Io ero stato a colazione con lui quest'estate, perché ero andato in Basilicata, che è la regione che amo, a passare le vacanze, e a Lago Negro in San Passato l'avevo invitato a cena, siamo stati insieme. Una giornata nera, brutta, perché è scomparso un amico, un grande artista. Abbiamo perso un grande artista vero. Così Mogol, noi passiamo a parlare di calcio adesso. Abbiamo in studio con noi Carlo Genta, anche lui sarà in onda oggi. Carlo, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Allora, dopo questo fine settimana di campionato, il parziale stop per le due prime, questo Genoa stellare. Veramente, meraviglioso. E Milan-Inter, un disastro. Battute come dei tappeti proprio dal Genoa. Ieri pomeriggio il Milan sconfitta senza attenuanti per Inzaghi, discreto primo tempo, ma davvero è un Genova irresistibile, che ha messo a nudo i gravi problemi di crescita del Milan. Ricordiamo una sola vittoria nelle ultime 7 partite, un distacco pesante dalla Juventus meno 14, ma Juventus e Roma, lo sappiamo, fanno un campionato a parte. E poi ieri sera l'Inter ha giocato, si è dimostrato e confermato una squadra abbastanza psicolabile, ha giocato un buon primo tempo con l'Udinese, è passato in vantaggio con Icardi e poi si è totalmente sciolta nella ripresa, alla fine ha fatto festa l'ex, uno dei tanti ex allenatori nerazzurri che stanno davanti all'Inter in questo momento. Non solo Benitez, non solo Gasperini, ma anche Stramaccioni. Dunque vince l'Udinese 2-1 e anche qui adesso c'è chi si appella al mercato, chi torna ad aggrapparsi a Mancini. La realtà è che l'Inter è a meno 18 dalla Juventus prima della classe, non era mai stata così staccata dalla prima nella sua storia dopo 14 partite, ed è a più 7 dalla zona rossa, cioè dalla zona retrocessione. Questi sono i grandi temi, aspettando che arrivino le coppe, perché domani tocca già la Juventus con l'Atletico Madrid e siamo all'ultimo giro di pista. Adesso si decide davvero chi va dentro e chi sta fuori. Juventus e Roma si giocano tutto in quest'ultimo giro di Champions League, la Juve con l'Atletico Madrid e mercoledì la Roma con la Manchester City. Tutto materiale per tutti i convocati, appunto, a partire dalle 14. Noi adesso però, prima di andare in pausa per sentire cosa succede sulle strade, parliamo dei mondiali di nuoto in vasca corta. 18 km al giorno in acqua per arrivare sul tetto del mondo. La faccia sorridente di Gregorio Paltrinieri, l'oro dell'Italia ai mondiali di nuoto in vasca corta. E Carpi, la cittadina emiliana in testa al campionato di calcio di Serie B, ha un altro buon motivo per fare festa. Una medaglia speciale per una città e un campione che vennero toccati direttamente dal terremoto che nel 2012 devastò ampie zone dell'Emilia. Spettacolare la prova di Paltrinieri nella vaschetta di Doha. 60 vasche, roba da maratoneti dell'acqua, con l'azzurro che ha seminato il tunisino Melluli, oro olimpico a Pechino 2008, e il canadese Cochrane, costretti ad accontentarsi rispettivamente di argento e bronzo nella scia dell'azzurro che a 20 anni entra ufficialmente nei top mondiali. Greg al top, super fede KO. La Pellegrini chiude il suo contraddittorio mondiale arrivando solo quinta nella sua gara ai 200 stile libero, dominati dalla svedese Sjöström che le strappa pure il record mondiale. Uno schifo quasi inspiegabile. Niente scuse, ora si riparte da zero, twitta la Divina, che pure aveva indicato nei mondiali di Doha solo una tappa di passaggio verso Rio 2016. Poi però ci si tuffa in piscina e se ti chiami Federica Pellegrini, perdere ti brucia sempre. E come? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sandro Gozzi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche europee. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, mi sembra, come diciamo già dai titoli, che il governo tedesco abbia fatto un passo indietro rispetto alle critiche di Merkel che sono arrivate ieri, no? Indietro giusto, era sbagliato dare giudizi non spettano un capo di Stato di governo, e poi erano sbagliati nel merito oltre che nella forma, e quindi abbiamo accolto molto positivamente le parole del portavoce della cancelliera Merkel oggi. Ci sembrano andare nella direzione della verità. Noi le riforme le stiamo facendo e sta poi alla Commissione europea a valutare il percorso di riforme di ogni singolo governo, non agli altri governi, altrimenti saremo veramente nella disunione europea totale, e noi vogliamo invece rafforzare questa unione. Senta Gozzi, ma come le interpreta le parole di Merkel di ieri, al di là, no, del, come dire, della valutazione politica che ne ha già fatto, no? Parla abbastanza nitidamente di un'ingerenza che non ci deve essere, perché chi dovete convincere, chi il governo deve convincere è la Commissione, non certamente il governo tedesco, anche se insomma su questo si potrebbe obiettare molto, però come le interpreta questa presa di posizione di Merkel? Da una parte lo interpreto come un messaggio molto interno, anche se una leader affermata e eretta 3 volte come la Merkel forse non dovrebbe avere bisogno, ma è vero che all'interno della destra tedesca c'è un dibattito. Perché? Perché si stava accorgendo che l'Unione Europea sta andando verso delle politiche maggiormente favorevoli alla crescita, come noi abbiamo voluto sin dall'inizio del governo Renzi e sin dall'inizio del nostro semestre. Questo cambiamento negli impegni politici della Commissione Juncker c'è, e questo certamente crea dibattito, probabilmente all'interno della destra tedesca, in cui c'è ancora chi crede che il tutto austerità sia una ricetta utile per l'Europa e per la Germania. In realtà si sta rivelando disastrosa per l'Europa e anche negativa per la Germania, questo è il paradosso. Comunque, soddisfatti, come dire, di questo passo indietro, che è arrivato tra l'altro anche dal ministro Schäuble? Sì, positivo anche perché le riforme che noi facciamo hanno un effetto, noi le facciamo per gli italiani, ma è evidente che hanno un effetto positivo per tutta la zona euro, essendo noi la terza economia della zona euro, essendo noi la seconda industria manifatturiera, quindi che altri governi, partner importanti, anziché dare lezioni non richieste, inopportune, ne prendano atto, è certamente un dato molto, molto positivo, e noi vogliamo avere con tutti i nostri partner europei, a partire dalla Commissione europea e da Berlino, un rapporto positivo in questa nuova fase, che per noi deve essere una fase di grande cambiamento dell'Italia ma anche dell'Europa. Grazie a Sandro Gozzi, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, responsabile delle politiche europee. Le auguro buona giornata. E ci ha raggiunto in studio invece Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Con te vogliamo parlare di quello che pubblicate oggi sul Sole 24 Ore, che è uno studio sulle tasse locali. Mentre oggi ci arrivano i dati in realtà sulle tariffe, che sono in netta crescita, un più 7,5% delle tariffe pubbliche nel biennio 2013-2014, sono dati dell'osservatorio Indis Unioncamere. Al top i rincari per rifiuti solidi urbani, più 18,2%, acqua più 12,7%, tariffe postali più 10,1%. E però c'è anche una questione che riguarda le tasse locali. Mediamente 465 euro a testa. Sì, bambini compresi. Bambini, no? Naturalmente, compresi. Ah, certo. Perché abbiamo messo il valore in rapporto alla popolazione. Lì il punto qual è? Mancano 8 giorni alla scadenza di Tasi e IMU. Poi in questo dicembre, in date diverse a seconda dei comuni, c'è anche la scadenza della Tari, cioè della componente sui rifiuti della imposta cosiddetta unica comunale. E sono, come abbiamo scritto in questi giorni, circa 16 miliardi di euro che i cittadini vanno a pagare ai loro comuni. Appunto, da qui a fine anno manca ormai veramente un soffio. La cosa, diciamo, più particolare è che naturalmente in queste medie sono il frutto di risultati molto diversi fra città e città. Noi stiliamo anche una classifica dei capoluoghi. Milano è la più cara, seguita da Venezia e Roma. Naturalmente su tutto questo ha un impatto, immagino, il fatto che in aree come Milano, Venezia, Roma, innanzitutto il valore delle case sia più alto e poi i redditi siano più alti e quindi l'IRPEF cresce, no? Esattamente, per esempio Milano e Roma hanno un panorama delle aliquote che è assolutamente uguale, anzi sull'addizionale IRPEF Roma batte Milano perché ha le sue norme pro capitale che fanno alzare l'addizionale sopra i tetti massimi. Ma naturalmente la geografia della ricchezza immobiliare, o almeno quella misurata dal catasto, e la geografia invece della ricchezza dei redditi, o almeno quella misurata dal fisco, diciamo danno molto al primato milanese. Venezia poi risulta particolarmente più cara rispetto alla media, anche perché lì si concentra un'alta quota di introiti dell'imposta di soggiorno in rapporto alle dimensioni del comune, che sono più piccole rispetto a quelle di Roma, dove l'imposta di soggiorno è ancora più alta, e così via. I capoluoghi del centro-sud sono invece in fondo alla classifica, ma tra questi c'è anche Trento. E allora lì torniamo alle delizie dell'autonomia speciale, che ha permesso al comune di Trento, unico tra i capoluoghi, di non mettere mai l'addizionale IRPEF e di tenere anche basse le aliquote dell'IMU e della TASI. Naturalmente lì ci sono entrate alternative. Allora, grazie a Gianni Trovati. Tutti grazie i dettagli e anche un po' di lista delle vostre città li trovate sul Sole 24 Ore, oggi in edicola. Se siete curiosi, anche se probabilmente lo sapete già, quante tasse pagate. Ora parliamo un po' di libri, però, perché uno dei grandi scrittori contemporanei in Italia per parlare del suo ultimo romanzo è l'inglese Ken Follett, autore di tanti bestseller, uno per tutti i pilastri della Terra. Ora è nelle librerie con I giorni dell'eternità, ultimo capitolo di una trilogia dedicata al Novecento, che ha riscosso anche questa grandissimo successo. Follett ci racconta la storia attraverso vicende ed emozioni di persone comuni. Lo ha intervistato la nostra Alessandra Tedesco, la traduzione di Paolo Noseda. I think it's part of the pleasure of a historical novel to learn something about history. In effetti, parte del grande piacere di leggere un romanzo storico è, a parte appunto, imparare la storia e anche riuscire a discernere quelle che sono le varie storie dei personaggi, riuscire a capire le loro paure, le loro speranze, il destino che viene loro riservato nell'ambito della narrazione del romanzo. Poi, diciamo, un regalino extra è proprio quello di riuscire magari a capire di più, a imparare di più di un certo periodo storico, e spero proprio anche che il mio libro sia interessante proprio perché parla della storia del XX secolo, che è una storia che noi conosciamo e siamo noi questa storia, l'abbiamo fatta noi. So in a way we learn something about ourselves also. In questa trilogia ci sono personaggi storicamente esistiti, insomma, per esempio penso a Kennedy, no? E lei racconta degli aspetti privati di questi personaggi della storia contemporanea. Quanto ha ceduto alla fantasia e quanto si è tenuto alla realtà? Well, for example, in my book President Kennedy has a love affair with a young woman who works in the White House now. Ebbene, devo dire che sì, insomma, per esempio nel mio libro quando parlo del presidente Kennedy, insomma, è noto che il presidente Kennedy avesse avuto delle relazioni con un sacco di giovani donne e io la descrivo una di queste relazioni. Certo, il personaggio della ragazza è del tutto fittizio e il personaggio invece del presidente è reale. Se mi chiede se sono stato fedele alla storia, devo dire di sì, perché in effetti, appunto, era conclamato, era risaputo che il presidente avesse avuto rapporti con centinaia di ragazze. La modalità con la quale lui seduceva queste donne, il motivo per cui lui volesse averla vicino, per esempio, o come questa ragazza fosse portata presso la sua residenza, come il presidente l'avesse sedotta, non è una cosa che ho inventato. Io sono riuscito davvero a parlare con una signora ora, ma che all'epoca aveva 19 anni e che lavorava presso la Casa Bianca e che aveva avuto appunto una relazione intima con il presidente. Quindi questi dettagli sono dettagli reali, sono partito da dei dettagli reali e certamente io ho poi descritto tutta una serie di fatti di come il presidente Kennedy abbia sedotto questa giovane di 19 anni e in che modo trattasse queste sue amanti. Quindi nonostante il personaggio della donna sia un personaggio fittizio, di fatto tutto il resto è basato sulla realtà. The things that he does are actually factual. He did do those things with other women. Lei dice che scrive sempre, che ha proprio bisogno di scrivere, insomma, non può passare più di una settimana senza scrivere. E allora in questo momento a che cosa sta lavorando e a che cosa presta attenzione? Qual è la cosa che le fa capire anche questo libro potrebbe piacere ai miei lettori? I'm writing a story set in the 16th century. Sto scrivendo un libro sul XVI secolo. C'erano molti che volevano in quel periodo uccidere la regina Elisabetta I d'Inghilterra, uno dei quali era Filippo di Spagna. E allora lei, per autoproteggersi da tutte queste congiure, costituì il primo servizio segreto nel mondo e quindi in tutta Europa aveva una serie di spie che riuscirono a scoprire tutti questi vari complotti contro di lei, al punto totale che lei riuscì ad assicurarsi una vecchiaia e morì da vecchia signora nel suo letto. Penso che, ecco, questo libro mi sia particolarmente caro e sarà molto caro anche ai miei lettori, però mi è un po' difficile spiegare il perché. È sicuramente un libro la cui trama è una trama di passione, dove per esempio i buoni combattono per assicurare la libertà, mentre i cattivi sono coloro che sono contro questa libertà e vorrebbero che tutti abbracciassero la stessa religione. Quindi è un libro che anche dentro di sé ha un significato morale molto profondo e l'obiettivo dovrebbe essere quello, insomma, del libro. Non mi chieda di spiegarle perché, ma davvero è un libro che nel mio profondo sento che sarà un bellissimo libro e le confesso anche che non vedo l'ora di iniziare, anzi di continuare a scriverlo. But in my heart I know that this is going to be a good story and actually I can't wait to start writing it. Saluto Vincenzo Spadafora, che è a capo dell'autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Spadafora, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Con lei vogliamo parlare di questo. Ora, senza fare un eccesso di moralismo, perché ce ne siamo occupati e continueremo ad occuparcene del giallo e della vicenda avvenuta in provincia di Ragusa, ossia l'omicidio di un bambino di 8 anni. E però si è innestato un dibattito su tutto questo nei giorni scorsi, su come la vicenda viene seguita e come in realtà viene seguita ogni volta, vengono seguiti ogni volta i fatti di cronaca quando riguardano dei bambini. La sua impressione, Spadafora, è che anche in questa occasione si sia ecceduto da parte nostra, intendo da parte di noi giornalisti? Ma io credo che ogni volta che accada un fatto di cronaca molto grave che coinvolgono bambini c'è sempre una parte della stampa che cede, così come c'è però gran parte della stampa che invece fa il proprio dovere e che racconta. Si va al di là, secondo me, del diritto di cronaca e anche appunto dell'interesse del pubblico di essere informato quando si diventa morbosi, quando si raccontano particolari che non sono utili da nessun punto di vista, quando si va molto spesso, non è ancora successo in questo caso ma è accaduto in altri, a intervistare i compagni di classe, quando insomma si va al di là di quello, secondo me, che è anche necessario per dare una corretta informazione. E purtroppo ci sono trasmissioni televisive anche importanti, anche della TV di Stato, che non perdono occasione, magari per qualche punto di audience in più, per fare questo ogni volta che accade un fatto di cronaca grave che coinvolge minorenni. E su questo voglio tornare da lei tra un attimo. Uno dei dibattiti che si sono aperti in questi giorni a proposito di questa vicenda è il ragionamento se nel momento nel quale un bambino, un minorenne perde la vita, perda anche quella sorta di diritto, ad esempio all'oscuramento, l'oscuramento del nome, l'oscuramento del volto che normalmente avviene quando si parla di una persona ancora in vita. Pensa che ci sia un ragionamento da fare su questo sbattere, se vogliamo, la foto del bambino su tutte le prime pagine? Ma questo vale sia se un minorenne appunto sia vivo o no, purtroppo sia stato vittima di qualunque crimine, quindi è chiaro che il ragionamento vale, ma vale, ripeto, soprattutto il ragionamento generale, cioè a volte anche alcune trasmissioni che magari oscurano in modo, diciamo, anche a volte molto parziale un'immagine, poi però raccontano particolari e, ripeto, fanno anche altre cose che rendono quasi inutile anche lo stesso oscuramento, quindi il problema non è solo rispettare quello che tecnicamente è anche scritto nei vari codici, nelle carte e quant'altro, ma è avere quell'attenzione proprio perché si sta dando un messaggio che vedono e che ascoltano anche altri ragazzi, altri bambini, oltre che gli adulti stessi. E quindi è quell'attenzione che bisogna avere sempre, sia che una persona sia viva, sia purtroppo che non ci sia più, e che va, diciamo, al di là di tutto, proprio nel fare una buona informazione e nel non andare invece a essere morbosi, come spesso, ripeto, capita, e lo si fa veramente raccontando cose che non hanno. Spadafora, ce l'abbiamo ancora o è caduta la linea? Chiedo ai colleghi. Mi dicono che a quanto pare è caduta la linea, perché l'altro argomento che volevamo approfondire con lui è se questa autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha una possibilità di sanzione, una possibilità di intervento per fermare, come dire, determinati tipi di deriva. Spadafora, ci siamo? È tornato in linea, perfetto. Volevo capire se voi avete un qualche potere di qualche tipo per intervenire, per bloccare determinati comportamenti che fossero eccessivi. Sì, noi in realtà come authority possiamo soltanto, quello che facciamo in realtà sempre, anche in questo caso l'abbiamo fatto, segnalare alla GCOM, che invece ha anche un potere sanzionatorio vero e proprio, cioè l'autorità sulle telecomunicazioni, e chiaramente fare pressione però soprattutto sulla TV di Stato, sulla RAI, cosa che io regolarmente faccio. Anche lì però devo dire che al di là della sensibilità che può arrivare dai vertici, dalla presidente Tarantolo, dal direttore Gubitosi, poi molto fa la differenza, diciamo, da redazione a redazione, da trasmissione a trasmissione, da conduttore a conduttore, e lì mi pare fino adesso che non ci sia una grande vittoria da parte nostra, perché quando ci troviamo di fronte a giornalisti che, come ho detto prima, anche per un po' di audience in più si disinteressano a ogni tipo di regola, mi pare che fino adesso non ci sia poi dall'alto indicazione che possa far cambiare. Ed è avvenuto anche in questo caso, secondo lei, Spadafora, giornalisti che, come dire, che... Sì, basta guardare la puntata che c'è stata di Porta a Porta, piuttosto che altre trasmissioni, cioè non c'è assolutamente l'interesse a dare soltanto l'informazione, a raccontare, ripeto, giustissimo, come lei diceva all'inizio, io non faccio il moralismo spicciolo, però si possono mettere a confronto una serie di trasmissioni, una serie di modi di raccontare la stessa cosa, per capire molto facilmente chi lo fa in modo morboso e soprattutto non corretto nei confronti dei diritti di questo povero bambino, cittadino e chi invece lo fa appunto dando comunque notizie, informazioni, ma rispettando tutti, cioè rispettando innanzitutto lui che non c'è più, la sua famiglia e anche chi. Quindi su questa vicenda secondo lei Vespa ha superato i margini? Beh, non è la prima volta, diciamo, quindi diciamo più che altro è stato coerente con la sua linea editoriale, mettiamola così, ma sicuramente non con l'interesse di un'informazione che rispetti anche le regole appunto della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e anche un minimo di regole che riguardano tutti i giornalisti. Grazie a Vincenzo Spadafora, capo dell'autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Come avete sentito, poi c'è già qualcuno che ci scrive, insomma, non stiamo facendo moralismo su questo tema, anche perché della vicenda continuiamo ad occuparcene noi. L'importante è cercare di non travalicare determinati limiti. Un'ultima notizia prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, perché una notizia che arriva da una dichiarazione dell'assessore ai trasporti di Roma Capitale, a margine di un'iniziativa, e che riguarda ATAC, l'azienda dei trasporti romani. Dice: a noi interessa sviluppare partnership internazionali perché l'importante è rilanciare Roma come meta di collaborazioni. Siamo in trattative con dei partner cinesi che sono interessati anche al perimetro industriale di ATAC, e quindi sostanzialmente, da quel che si capisce da questa dichiarazione, ha l'acquisizione anche solo di quote, evidentemente, dell'azienda dei trasporti pubblici romana. Un'ultima notizia di calcio, a chi naturalmente fosse interessato: è stato esonerato l'allenatore del Cesena, la decisione era nell'aria dopo l'ennesima sconfitta ieri 3-2 contro l'Atalanta. Altre questioni che, se volete, sono buone per tutti i convocati. Dopo le 14 è il momento di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Voglio partire con il recupero di una notizia di venerdì: l'economia americana ha aggiunto 320.000 posti di lavoro in novembre. Ne abbiamo parlato a lungo la settimana scorsa, torneremo a parlarne, ma oggi voglio raccontarvi altro. Ecco, partiamo dall'attacco di un comando americano contro una cellula di Al-Qaeda nello Yemen. L'attacco era di sabato mattina, questa cellula deteneva degli ostaggi. Purtroppo nell'attacco i due ostaggi, Somers e Pierre Corquin, un sudafricano, sono rimasti uccisi. E ieri in America, soprattutto nei talk show della domenica mattina, c'è stata la coda polemica di questa operazione, soprattutto per la morte del sudafricano, perché una NGO, Gift of Givers, una non profit molto attiva nello Yemen, stava cercando di negoziare il suo rilascio e ci sono state proteste per l'azione americana, che era mirata soprattutto alla liberazione di Somers, che ha ignorato quelle che invece potevano essere le esigenze di Corky. Sentiamo Obama dopo l'intervento. I think for us to recognize that when it comes to dealing with terrorist activity, that Canada and the United States has to be entirely in sync. We have in the past. I'm confident we will continue to do so in the future. Ecco, Obama ha risposto a queste critiche. Gli Stati Uniti, dice, non negoziano coi terroristi, ma prenderanno ogni misura necessaria per tutelare l'incolumità, la salvezza dei cittadini americani. La Casa Bianca ha dato altri dettagli: i tempi erano strettissimi, occorreva agire per non restare sempre passivi davanti ai tagli di gola di innocenti in video. Obama ha confermato la linea dura: mai cedere al negoziato, magari spendere molto di più di quanto richiesto dai terroristi in termini di riscatto, di spendere in missioni militari naturalmente per combatterli e per cercare di liberare gli ostaggi. La ricostruzione degli eventi ci dice che l'America era organizzata, un comando di 24 giovani delle forze speciali è arrivato in elicottero nella provincia di Adramurhaut, che è ricca di petrolio, in parte controllata controllata dagli estremisti islamici poco lontano dal villaggio dove erano i prigionieri. Il comando aveva tutti i dettagli, sapeva in quale casa erano detenuti, erano poche case in questo villaggio, però è mancato l'effetto sorpresa. Che è successo? I terroristi di guardia hanno visto gli americani, sapevano che poteva esserci qualcosa dopo l'attacco di qualche giorno prima, sono corsi dentro, hanno subito sparato contro gli ostaggi per ucciderli prima che potessero essere liberati. Ma al di là delle polemiche per la morte del sudafricano, la strategia americana, vi dicevo, sta cominciando a funzionare, mette molta pressione sui gruppi terroristici. Adesso l'obiettivo di Washington è attaccare obiettivi precisi anche in Iraq barra Siria, cioè nei territori dell'ISIL, per liberare alcuni dei molti ostaggi detenuti da questo gruppo di estremisti islamici che rappresenta per tutti noi il pericolo maggiore. It wasn't like it was a shock. They knew him by name. They harassed us. They said things to us. You know, they high cigarette man. And I would just say, Eric, just keep walking. Don't say anything. Don't respond. Issei Garner, la vedova di Eric Garner, quell'omone ucciso lo scorso luglio a Staten Island, e poi il poliziotto che lo ha ucciso, come ricorderete, è stato considerato non perseguibile da un gran giurì. Il dibattito sulle ingiustizie razziali in America e sui problemi con la polizia è continuato ieri. La vedova di Eric ha parlato per la prima volta, dice che il marito non aveva mai resistito un arresto. E dice, non era un santo, ma non era né pericoloso né violento. I poliziotti lo conoscevano per nome, avevano deciso di perseguitarlo, e sappiamo che in effetti ci sono degli abusi di potere da parte della polizia, che ogni tanto prendono di mira qualcuno e ne approfittano. E lei dice, lo avevano nel mirino, volevano metterlo in prigione a lungo per niente, e alla fine lo hanno assassinato. Ho paura per i miei figli, ho paura per la mia gente. Una testimonianza drammatica che poi si è aggiunta a una notizia. Il 13 a Washington ci sarà una marcia nazionale con le famiglie delle vittime per protestare la discriminazione razziale. Bueno, los padres de familia están ya al límite de la tolerancia primero, están pensando otras cosas más allá de la protesta pacífica, sí, porque sienten que el trabajo del gobierno federal pues es inútil para ellos, es una simulación de búsqueda que no da resultados. Entonces ya están pensando en otra situación, en otra forma de exigencia. Han pensato in armarsi già nel pueblo e fare altre cose. Ecco, e continuiamo con un altro scandalo che riguarda la polizia, questa volta molto grave, molto più grave di quello americano. È uno scandalo che riguarda la polizia messicana. Avete sentito la voce di Felipe del Cruz, che è il padre di uno dei 43 giovani rapiti dalla polizia. Sono spariti e poi sono stati uccisi in settembre in una remota regione controllata da trafficanti di droga. Il padre dice non si darà pace fino a quando non si troveranno le prove anche della morte del figlio. Perché dice questo? Perché ieri per la prima volta una prova si è avuta, è stato possibile ricostituire il DNA di Alexander Mora, che è uno dei 43 studenti oggetto, come vi dicevo, di uno dei più orribili casi criminali in Messico. I ragazzi erano tutti studenti, volevano diventare insegnanti, erano andati dalla loro università, che è a Uzitonapa, fino ad Iguala, in settembre, appunto, per protestare contro quella che sembrava essere un'apparente discriminazione nelle assunzioni di insegnanti. Si dava priorità ai laureati delle città invece che a quelli delle campagne. Una protesta normale, non ci sono state violenze, però la cosa non è piaciuta al sindaco di Iguala, José Luis Abarca, perché sua moglie, Maria de los Angeles Pineda, doveva tenere un comizio, e questo sindaco era irritato da questi disturbi, ha chiesto alla polizia di fermare i ragazzi, di punirli, e questi ragazzi sono stati attaccati dalla polizia mentre tornavano a casa su dei minibus. La polizia ha sparato, ne ha uccisi tre, gli altri sono stati catturati, sono stati portati nelle caserme della polizia, e poi pensate, e questa è la cosa assurda, sono stati consegnati a una gang criminale che fa parte del cartello della droga messicano, il gruppo Guerreros Unidos. E questi trafficanti di droga hanno ucciso tutti i ragazzi, hanno poi portato i cadaveri in un deposito di spazzatura, li hanno bruciati, le ceneri sono state gettate in un fiume per evitare qualunque riconoscimento. Però ieri, appunto, le prime prove, 70 arresti finora in Messico. Il sindaco e la moglie sono in prigione, traffico di droga, corruzione, collusione delle autorità e della polizia e morte di questi 43 ragazzi innocenti. Non c'è limite al peggio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di, come dire, di tradimenti da parte di coloro di cui ci si dovrebbe fidare, e c'è una canzone che in questo momento è in testa alle classifiche americane di un cantante che sta avendo un enorme successo, ve lo segnalo, Sam Smith. Sentite l'umore triste e di riflessione di questa canzone, I Am Not The Only One. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. And my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook. Ci risentiamo tra un attimo con GR24, Effetto Giorno torna domani alle 13.